Nel 1972, in vista delle elezioni americane, il Wall Street Journal pubblicò un'intera pagina di pubblicità pagata dal comitato per la rielezione di Richard Nixon. Avrebbe dovuto essere abbellita questa pagina da un contorno di bandierine americane, ma qualcuno provvide ad alternare le bandierine con piccole svastiche. Qualcuno che evidentemente aveva idee chiare su Nixon e sull'America e che il giorno dopo, a quanto spiegò poi la direzione del giornale, scoperto e individuato in tipografia, venne prontamente licenziato. Un altro caso è quello della vigilia di Natale del 1996 a Udine. Alcuni negozi del centro cittadino non poterono aprire perché qualcuno che aveva le idee chiare sulla funzione mercantile delle feste religiose aveva versato colla al silicone nelle serrature. Sono casi contro i quali una società ben organizzata si protegge di solito con norme per governare i contratti di lavoro e soprattutto con la polizia. Appendere invece un biglietto, per esempio, ad un ramo di un albero in un parco, in un luogo poco frequentato della città, un biglietto su cui è scritto chiudi gli occhi e immagina di vedere un quadrato di colore giallo limone. Il quadrato è ghiacciato. Al centro ha una rosa, questa rosa è rosso fuoco, profuma intensamente, da essa esce un vermetto lilla con la testa di una papera. Ora alza le mani in alto e chiudi bene la bocca, che stiamo per rapinarti. Appenderlo in fin dei conti dovrebbe essere del tutto legittimo e nessuno dovrebbe importunare chi avesse avuto la simpatica idea di appenderlo. Una dichiarazione poetica di rapina è una cosa, e tutt'altra cosa è una rapina, e forse tutt'altra cosa ancora è anche una rapina previa dichiarazione poetica. Se ci mettiamo d'accordo in tre o quattro a fermarci per la strada, fissare un punto in alto sul caseggiato di fronte e ogni tanto indicare con la mano, non dovrebbe farci incorrere nei rigori della legge. Lassù non succede alcunché e i passanti saranno indotti a fermarsi, a guardare anch'essi secondo un noto modello evolutivo epidemiologico, magari chiedendo cosa sta succedendo, ma lo spostamento dell'attenzione altrui non è ancora un reato. Un altro modo più incisivo di invadere il pensiero altrui è quello di avvicinarsi a un'automobile parcheggiata e svaltamente infilare sotto il parabrezza un bigliettino di scuse. Ci si scusa con il proprietario per aver urtato la sua auto e gli si lascia anche il numero di telefono per gli eventuali danni. E il fatto che l'auto sia perfettamente integra creerà un bel tipo di problema al proprietario. L'ordine delle cose gli apparirà d'improvviso rovesciato e per qualche minuto o qualche ora vivrà con preoccupazione lo spaesamento della novità. Sono tutti esempi, questi che ho raccontato, che ho tratto da Non è vero, un bel libro di Edoardo De Falchi edito da Odra Deck. È un libro dedicato alla disordinazione sociale, ovvero a quel che ciascuno di noi può fare per indurre il proprio prossimo ad una riconsiderazione critica delle norme implicite e della relativa segnaletica che governano la nostra vita associata. Si tratta di proporre un momento di consapevolezza in alternativo all'automatismo demente con cui eseguiamo il nostro spartito nel ripetitivo palinsesto della vita quotidiana. Nella maggior parte dei casi non si tratta neppure di mettere a rischio il posto di lavoro o di commettere reati, eppure, si tratta di gesti coraggiosi. Coraggiosi perché mettono in crisi le minutaglie scontate della viltà sociale di tutti i giorni. Città, ragazza al volante, coda terrificante, traffico pressoché bloccato. Abbiamo imparato ad accettare supinamente questo scandalo quotidiano. Al semaforo, extracomunitario propone lavata di vetri e fregandosene del rifiuto della ragazza lava lo stesso. Dietro suonano ripetutamente il clacson. Abbiamo anche imparato ad accettare supinamente che alle ragazze al volante si possa suonare e risuonare clacson di rimproveri mantenendo impuniti. Il clacson diventa più violento se alla ragazza si aggiunge l'extracomunitario. Due oggetti di violenza libera e in più apparentemente in combutta fra loro. A questo punto la ragazza spegne il motore dell'auto e scende. Il suonatore di clacson urla e bestemmia rimanendo al sicuro nel suo tabernacolo. Arriva in compenso un altro che non ha capito, dice «Signorina, le si è fermata l'auto, dia qui le chiavi che ci penso io». Il presupposto del maschio è tuttora quello dell'inettitudine della femmina. Lei gli dice «No, guardi, non è la macchina che non funziona. A me i colpi di clacson fanno male e a questo punto non funziono più io». Anche un episodio come questo può stare fra i necessari prolegomeni della critica al sistema di valori. Non è vero, è un libro utile non solo per le tesi che sostiene, ma anche per alcune sue strane pagine conclusive. Provvede il lettore, infatti, di adesivi, perché come un piccolo chimico della vita sociale promuova le sue personali disordinazioni sul posto di lavoro, per la strada, al supermercato, in altri luoghi pubblici dell'anonimato collettivo. C'è l'adesivo che dice semplicemente «vergogna». C'è quello che dice «questa fissione è vietata ai sensi della Art 663 CP». Oppure c'è quello che dice «non è vero». A me personalmente piacciono «premere con forza qui» e «fuori servizio», l'ideale per bancomat e per apparecchi telefonici.